Incontri di Gianfranco Fabi. Con le note del flauto magico di Mozart iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Piero Carlo Bonzano. Buonasera. Presidente di B-Cube, poi diremo cos'è B-Cube, una grande società di logistica. Anche Mozart si occupa di logistica, si occupa di fare muovere Tamino verso Tamina, di far muovere Papageno verso Papageno. Perché le piace Mozart? Ma perché Mozart è musica allo stato puro, musica deliziosa, leggera, nonostante... esoterica, direi. Un po' massonica. Sì, no, massonica no, esoterica. Esoterica. Sentiamo un altro piccolo pezzo. Sì. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Una musica vivace, quella di Mozart, un'atmosfera diversa, un'atmosfera elegiaca, un'atmosfera di cose appunto magiche, e invece la logistica è qualcosa di molto concreto. Come è diventato presidente di B-Cube, Piercarlo Bonzano? Ma la nostra è una società di famiglia, è giunta alla quarta generazione, io rappresento la terza, la quarta ovviamente sono i miei figli, e noi siamo nati veramente nel settore del legno e poi... Per dovere abbiamo incominciato un'attività logistica primaria, diciamo, con un cliente e da lì è iniziata la nostra avventura nel settore della logistica. Quindi una società, dove ha sede? Come... La società ha sede a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, e una particolarità a cui noi ci teniamo molto, tant'è vero che stiamo costruendo la nuova sede, i nuovi uffici, il quartier generale di questa società, per cui questo sarà pronto nel 2015, e abbiamo fatto una scelta provinciale un po' in controtendenza e quindi dal centro ci siamo trasferiti in provincia. Beh, nella provincia si vive meglio poi. Direi sì, la qualità della vita è sicuramente molto buona. Ecco, comunque avete poi, come si può dire, dei punti di appoggio un po' in tutto il mondo. Ma innanzitutto noi siamo quasi in tutta Italia con circa 32 centri, per cui praticamente dal nord al sud siamo quasi ovunque, e poi siamo con altre 22 sedi in giro per il mondo, per cui questo ci permette di avere una visione da provinciale a internazionale. Ecco, quando si parla di logistica, Piero Carlo Bonzano, si pensa, vabbè, ai postini, a quelli che portano delle cose da una parte all'altra, e invece voi siete abbastanza diversi come logica industriale. Sì, noi forse perché provenendo dall'industria, quindi dall'industria del legno, abbiamo traslato questa nostra esperienza sull'attività di logistica, e quindi ciò che è movimento è una parte dell'attività di logistica, però l'attività di logistica c'è tutto un cuore pensante, una testa pensante, che è quella che fa sì che ci si muove bene, quindi non è solo muovere i materiali, ma è come muoverli, quando muoverli e dove muoverli. Ecco, questo anche perché l'industria moderna richiede non solo di muovere i prodotti finiti, ma richiede di muovere i componenti dei prodotti finiti mentre avviene la produzione, quindi voi fate parte della produzione. Noi siamo proprio nati con questo tipo di attività che abbiamo ulteriormente sviluppato. Noi di fatto, col termine logistica, lei prima citava, normalmente si pensa appunto ai postini, al courier, ai trasportatori, le stesse aziende che fanno anche solo traslochi sono parte della logistica. La nostra diversità è quella di fare la cosiddetta catena logistica, attivare la cosiddetta catena logistica, quindi tutto ciò che è il movimento di questi materiali in entrata, durante la gestione della produzione, in uscita, e quindi far sì che tutto questo avvenga in tempo reale, senza ritardi e nel migliore dei modi. Perché questo nome B-Cube? B al cubo. B ovviamente è il cognome Bonzano. Noi avevamo tanti marchi, poi un anno fa abbiamo deciso di, in occasione della fusione di due nostre realtà, di creare un nuovo marchio. Ci siamo affidati all'ottimo lavoro di Oliviero Toscani, il quale ha usato questa fantasia sia sul logo sia sui colori, per cui B penso sta per Bonzano. Cube significa significa un qualcosa che cresce, qualcosa che si moltiplica, quindi un moltiplicatore di più che esponenziale, quindi un po' quello che noi forse vogliamo fare nella vita e vogliamo fare nel nostro lavoro. Cioè avere un'immagine propria, un'immagine vostra, che è parte di un'immagine poi anche delle, sì, delle altre sicuramente realtà. Sicuramente un'immagine che vuol dire movimento e crescita, che poi è il nostro must primario. Ecco, possiamo fare un esempio di logistica, di logistica integrata come la vostra, per esempio una realtà come la Fiat. Voi non spostate solo le automobili finite? No, certamente. Diciamo che l'attività, adesso non usando Fiat ma usando magari un cliente ipotetico, normalmente noi ci occupiamo della ricerca del modo migliore per andare a prelevare i materiali, quelli che noi chiamiamo il milk run, quindi la raccolta del latte. Andiamo a prelevare il materiale dai fornitori e quindi questo sistema di trasporto, che vuol dire la scelta delle tratte, vuol dire le tratte minori, il modo, i tempi. Il materiale viene portato in stabilimento del cliente, lì abbiamo un magazzino per il ricevimento della materia prima, dopodiché viene inoltrato alle linee di produzione nel tempo richiesto, nel modo richiesto, quindi con una grande creatività, che vuol dire magari la costruzione di contenitori specializzati dove il robot possono, e non solo le persone, possono prendere i pezzi, modo di arrivare, quindi non evitando il solito carrello ma arrivando in modo automatico, e quindi tutta questa attività all'interno della fabbrica. Poi andiamo ancora avanti, quindi quando il prodotto è quasi finito facciamo anche delle customerizzazioni, quindi verniciatura, preparazione di skit, materiali e quant'altro. Poi la gestione del prodotto in uscita, quindi la consegna al cliente finale, questo tramite trasporto, spedizione, nave, aereo o treno, e poi o camion, e poi la gestione dei magazzini, dei ricambi, quindi il cliente lo seguiamo anche dopo organizzandogli il magazzino ricambi, quindi facendo sì che anche questa gestione, che fa parte della produzione comunque del cliente, sia gestita all'esterno. Ecco, quindi vi occupate anche della movimentazione delle merci all'interno di uno stabilimento? All'interno dello stabilimento, cercando qua ormai dei mezzi sempre più sofisticati proprio per avere il massimo dell'automatismo e il massimo dell'efficienza nel percorso, e soprattutto anche nel far sì che questo, soprattutto i manipolatori delle macchine, trovino il pezzo nelle due coordinate in modo preciso. Quindi occorre un'ingegneria per studiare il mezzo di raccolta proprio per permettere di far prelevare il pezzo in quel punto preciso. Ecco, quindi una logistica che può occupare uno spazio di anche di poche decine di metri all'interno di uno stabilimento, ma che può essere anche grande quanto il mondo. Ci sono esempi di prodotti che vengono, diciamo, assemblati con componenti che divengono da diversi stabilimenti in diverse nazioni? Ma ormai quasi tutti i nostri clienti hanno più produzioni in più paesi, e quindi il fatto di negli ultimi 5-6 anni aver spinto così all'estero la nostra realtà è proprio per poter far parte di questa virtuosa catena, dove il cliente ormai produce un pezzo in America, un altro in Brasile, un altro ancora in Cina, poi magari arriva in Italia ad assemblarlo. Quindi la nostra capacità è proprio quella di affiancare il cliente in giro per il mondo per far sì che questa gestione possa essere integrata e quindi loro abbiano un unico provider a cui affidare questa attività. Ecco, in giro per il mondo forse, almeno si dice, ci si muove un po' meglio che in Italia. L'Italia ha qualche problema a livello di trasporti, di efficienza, di code sulle strade, di efficienza delle ferrovie. Come da esperto di logistica, come vede il problema Italia? I problemi credo li conosciamo tutti, forse quello che non conosciamo sono le soluzioni. Io sono un fautore del fatto che forse i nostri politici dovrebbero incominciare ad farsi affiancare o cercare di parlare con quelli che in Italia sono i buoni talenti, quindi incominciare a mettersi attorno delle persone che hanno fatto qualcosa, che hanno delle idee, perché comunque queste idee le sviluppano in giro per il mondo e dai propri clienti, e chiedere dei pareri, quindi al di là della logistica un po' su tutti i settori. Mi pare invece che sia un mondo molto chiuso, dove il privato viene sempre visto come un qualcuno il quale tenta di approfittarne, cosa che invece, almeno per quello che io so, non è vero. Incontri. Pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop p È sempre affascinante sentire Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, il flauto magico, lo stiamo sentendo grazie alla scelta di Piero Carlo Bonzano, presidente di B-Cube, questo dialogo tra Papageno e Papagena in questo musical, possiamo dire, musical del Settecento, che ci riporta un po' anche la vivacità, diceva Piero Carlo Bonzano, della musica, una vivacità che fa parte poi anche della società attuale, una società in cui il muoversi diventa importante e sempre più importante. B-Cube, abbiamo detto nella prima parte, è la più grande società italiana sul fronte della logistica, sulla movimentazione di materiali per le imprese, all'interno delle imprese, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, un'azienda che si è sviluppata, è arrivata alla terza e sta passando alla quarta generazione quando Piero Carlo Bonzano lascerà ai suoi figli, cosa che già presto, già adesso. Già adesso, no. È sempre meglio continuare a divertirsi anche facendo appunto l'imprenditore in questo nostro paese. È un mestiere difficile quello di imprenditore. Sempre più difficile. Anche perché ci complichiamo la vita un po' da soli spesso. Molto bistrattato e poco riconosciuto. Sicuramente più riconosciuto all'estero. Ecco, quali sono gli ostacoli maggiori? Non mi dica il fisco, che lo sappiamo già, paghiamo tutti le tasse con un po' di sacrificio, ma quali sono gli ostacoli maggiori per un imprenditore? Quelli che magari possono essere rimossi in qualche modo, che si dice, ma perché non si cambia, che sarebbe così facile? Me ne vengono in mente talmente tanti che è difficile dirgliene uno in precisione, ma sicuramente ritorno, il dialogo, la mancanza del dialogo tra una realtà del paese, cioè quella che produce bene, in modo serio, e quello che chi governa il paese, che dovrebbe cercare di capire le necessità, anche perché poi noi quando all'estero competiamo anche come sistema paese, non solo come imprenditore, come impresa, e quindi tante volte, ecco, non essere ascoltati e non essere considerati magari ci pesa in modo particolare. Ecco, lei ha due figli, mi sembra, sì, che sono già in azienda. Sì, tutti e due. Che cosa ha detto il primo giorno che sono entrati in azienda? Ho detto se erano sicuri della scelta, perché non erano obbligati a farla, anzi assolutamente non erano obbligati. Questo è una cosa che si fa quasi per vocazione, soprattutto oggi, e quindi uno dei due mi ha detto: io penso di avere questa vocazione, devo dire che ha dimostrato di averla. L'altro direi sta piano piano trovandola, è più giovane, e quindi mi auguro che anche lui raggiunga la sua, e per cui vedo che è un momento difficile. Però devo dire che io sono entrato nel 78 in azienda e ho solo avuto momenti difficili, nel senso che il mio prodotto era un prodotto che continuamente era in decremento, e quindi dovevo innovare e inventare delle cose. È per questo che a volte faccio difficoltà quando sento questo paese che non c'è più fantasia, non c'è più voglia, non c'è più, non si sa cosa fare. Ecco, resto abbastanza sorpreso, perché in un'azienda quando si parte la mattina che non si sa cosa fare, è meglio chiudere, perché proprio non c'è più nulla da... E poi c'è più soddisfazione a superare i problemi che non a trovare la strada. Questa è la vera sfida. Ecco, che cosa dice invece a un giovane che entra in azienda per la prima volta? Ma io la prima cosa è sicuramente le cose che guardiamo noi, è la sua cultura, la sua preparazione scolastica. Io sono un fautore della preparazione scolastica, in quanto è molto importante. Poi chiaramente ci sono i valori personali e le capacità personali, però comunque una cultura di base è un punto di partenza fondamentale. E poi dico di avere molta umiltà, e quindi approcciare cercando di dimostrare cosa uno vale prima di incominciare a chiedere cosa può pretendere. Quindi forse perché questo è l'approccio che mi è stato insegnato, e quindi vedo che ha avuto successo e che ha successo, per cui direi di incominciare a dimostrare, mettendocela tutta, quali sono i suoi talenti e le sue capacità. Ecco, voi vi muovete con tutti i mezzi che la logistica prevede, dai tir ai treni, alle navi, aerei. Agli aerei. Ecco, qual è il mezzo? Cioè, ovviamente per ogni cosa c'è il mezzo più adatto. Qual è quello che vi fa più problema però? Ma oggi forse quello che ci fa più dispiacere è l'aereo, perché l'Italia è sicuramente, dal punto di vista degli aeroporti, è abbastanza non ben organizzata, ecco, in quanto ci sono tanti aeroporti, manca la specializzazione, cosa che all'estero c'è nel settore del cargo aereo, e però adesso qualcosa si sta cercando di fare, quindi. E poi il marittimo, perché l'Italia ha delle grandi potenzialità, è un ponte che si lancia verso l'Africa e quindi avrebbe possibilità di fare molte attività di logistica in futuro. Sui porti siamo così in ritardo, cioè abbiamo tantissime possibilità, però forse non abbiamo scelto di puntare su un porto, abbiamo 50 porti ma nessuno di grande capacità. Ma credo che paghiamo sempre un po' la conseguenza di certe scelte dove, anche un po' campanilistiche, ognuno cerca di fare per conto proprio, ecco, mentre invece, giustamente come dice lei, anch'io sono di questa idea, meglio fare poche cose ma bene, quindi magari anche un solo aeroporto, magari anche un solo porto, però veramente al massimo, quindi è inutile avere tante cose per poi gestirle male, ma soprattutto far sì che il nostro eventuale compratore di servizi, che quindi è l'estero, si trovi male, perché non è solo più un problema di paese come noi affrontavamo una volta il sistema marittimo oppure il sistema di trasporto. Qui ormai è un problema che il nostro cliente è un cliente estero, il quale trova una serie di inefficienze che sono legate a tanti servizi che non funzionano. Ecco, abbiamo detto prima che la dimensione provinciale è una dimensione in fondo maggiormente a misura d'uomo di altre realtà, però da un certo punto di vista provinciale è anche un limite per l'Italia, il voler difendere a ogni singola realtà, per esempio avere dei porti in una provincia piuttosto che in un'altra, o degli aeroporti. A Milano non si è mai fatta una scelta vera tra Linate e Malpensa e quindi si è rimasti un po' con due aeroporti azzoppati in un certo senso, questo è un po' un limite dell'Italia. È sicuramente un limite perché ormai, diciamo, in particolare la politica ragiona a suon di voti e quindi le scelte vengono fatte cercando di sempre rappresentare qual è l'accoglimento di queste scelte, cosa che non sempre è giusta perché tante volte vengono fatte sull'emozione, quindi c'è l'emozione del pubblico il quale segue una scelta o spinge su una scelta approvando o non approvando. Certe scelte vanno fatte indipendentemente, ecco, dall'approvazione generale, ma sono scelte difficili, importanti, che però vanno fatte, bisogna avere il coraggio di farle. Esatto, pensando io credo sempre che è importante guardare la storia, i nostri vecchi politici in fondo hanno fatto delle scelte difficili, hanno fatto anche delle cose magari antipatiche o non comunque eclatanti, però hanno sempre avuto davanti quello che era il bene del paese e quindi hanno sempre cercato di fare scelte che a volte scontentavano qualcuno, però nell'insieme erano sempre positive. Ecco, Piero Carlo Bonzano, presidente di B-Cube, quali scelte sta facendo per i prossimi anni? Dove sta puntando la sua azienda? Quali investimenti state progettando o realizzando? Ma noi sicuramente continuiamo a crescere sia in Italia, che per noi è il nostro comunque paese del cuore, quindi per noi l'Italia è sempre importante ed è sempre importante cercare di migliorare, e poi ovviamente all'estero. Noi oggi siamo una realtà presente in 18 paesi in giro per il mondo, contiamo di aumentare ancora, quindi avremo almeno una metà, il 70% del nostro fatturato sarà all'estero, il 30% però in Italia, ma un 30% in crescita. Questo vuol dire che anche l'economia sta un po' muovendosi. Direi di no, purtroppo l'economia non sta muovendosi, diciamo che noi purtroppo siamo un po' come il medico che viene chiamato a migliorare una situazione di un paziente che magari è malato, in alcuni casi anche moribondo, quindi quando si ristruttura la logistica ci sta che il nostro cliente abbia dei problemi, come anche tante volte invece solo una scelta puramente strategica, quella di terziarizzare. Certo, però può essere anche una ricerca di maggiore competitività e quindi di maggiore possibilità, sì, di stare sui mercati. Assolutamente sì, anche perché noi quando iniziamo un rapporto col cliente, il nostro rapporto inizia prima di tutto con la riprogettazione della catena logistica. Un grosso sforzo di ingegneria e di informatica che ci porta proprio a andare a cercare le nicchie di inefficienza e quindi risolverle e quindi portare al massimo dell'efficienza l'attività logistica del cliente. Ma lei è ottimista per carattere oppure per professione? No, io non sono ottimista, però penso che bisogna esserlo, soprattutto in un momento come questo, perché comunque se guardiamo l'altra metà del bicchiere ci sono tante ancora cose valide, tante cose da fare. L'importante, ripeto, è che ci sia l'accoglimento da parte di chi dirige il paese, di ascoltare le proposte. Quindi ci sono tanti problemi a cui fossi io mi rivolgerei a uno specialista chiedendo cosa posso fare. Qui invece neanche se andiamo a proporlo ci ascolgono, quindi anzi molto probabilmente eppure c'è sempre una soluzione per ogni problema, molto spesso ne abbiamo due, questo forse sì, è il problema. Sì, esattamente, diceva sì. Qualcuno che tratti due economisti troverete tre soluzioni. Sì. No, io credo che forse bisognerebbe entrare un po' più nella pratica, ecco, forse oggi siamo abituati ad ascoltare tante persone che parlano, forse è venuto il momento di parlare meno e fare di più, e quindi forse bisognerebbe ascoltare chi fa e cercare di prendere delle idee o farsi proporre delle idee da chi fa o è abituato a fare, non soltanto di chi sa parlare, basta. Quindi avere fiducia sull'Italia e rimboccarsi sì, le maniche. Assolutamente sì. Quindi possiamo concludere così, siamo comunque ottimisti, ma anche ottimisti nella realtà, non sì, solo certamente, come me. Certamente. Grazie a Piero Carlo Bonzano di essere stato con noi, presidente di B-Cube. Ringrazio anche Gianmarco Ferronato in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Grazie e per quanto resta, buona domenica.